Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di mete e di viaggi. Tra le mete più affascinanti restano sempre gli Stati Uniti, che ci fa conoscere da prospettive insolite Oliviero Bergamini, un giornalista del TG3, autore del libro Da Wall Street a Big Sur, un viaggio in America, pubblicato dalla Terza, 268 pagine, 18 euro. L'America sta perdendo molti primati, scrive Bergamini, ma resta pur sempre il laboratorio di futuro, per usare la sua espressione, un luogo nel quale, come in nessun altro, ci si può sentire tanto pieni di potenzialità. E allora Bergamini ci illustra il suo viaggio, che lo porta in luoghi mitici e topici come Wall Street, a tanti altri non meno noti, dove però ribolle l'America autentica e dove egli coglie lo spunto per fare delle riflessioni sul presente e sul futuro degli Stati Uniti. E allora sentiamo da lui alcune impressioni. Buongiorno a Oliviero Bergamini. Buongiorno a voi. Oliviero Bergamini, partiamo dalla seconda tappa del suo viaggio, Cleveland in Ohio, che lei assume come simbolo della crisi del ceto medio americano. In che cosa si manifesta questa crisi? Si manifesta ovviamente in termini molto concreti e molto economici. Si vede fisicamente a Cleveland, che è una città simbolo proprio dell'American Dream, del sogno americano, una città che negli anni 60-70 era piena di quella working class che costituisce appunto il nervo dell'America e che oggi ha perso la metà dei suoi abitanti, in pochi anni si è dimezzata, e questo si vede nelle strade spettrali fiancheggiate da case vuote di famiglie americane che non possono più pagare il mutuo e ormai hanno dovuto abbandonare queste case. E questi scenari sono simbolo appunto di una classe media sempre più schiacciata, una ripartizione dei redditi che beneficia le elite, i ristrettissimi gruppi che stanno a un vertice della piramide sociale, e penalizza le fasce intermedie. E sono cose che non vengono dette soltanto dalle statistiche economiche, ma anche dal marketing, dalle grandi catene di distribuzione, dalle mappe delle città dove c'è una crescente polarizzazione dei quartieri e sempre meno gente vive in quartieri medi, mentre sempre più gente vive o in quartieri ricchi, pochi, o nei quartieri poveri, tanti. E tutto questo a Cleveland, Ohio, si vede molto bene, ed è una cosa importante perché l'Ohio, come è noto, è uno degli stati in bilico che decideranno l'elezione del prossimo presidente. Un altro stato importante è lo Iowa, dove lei fa delle considerazioni invece di carattere politico. Lì nota questa divaricazione tra la partecipazione popolare viva e vitale, lei scrive, il potere del denaro. Ecco, questo scontro come sta cambiando il funzionamento delle istituzioni americane? In questi ultimi mesi sta cambiando molto, perché nel 2010 la Corte Suprema, con una sentenza che è considerata da tutti gli osservatori una sentenza importantissima, ha praticamente spazzato via i limiti che esistevano prima ai finanziamenti da parte delle grandi aziende, delle grandi corporation, ai finanziamenti per le campagne elettorali. E quindi il potere del denaro, dei vested interest, degli interessi costituiti, sta in questi ultimi mesi, in questa campagna presidenziale, avendo una libertà di azione che prima non aveva. Erano decenni che vari parlamentari americani avevano fatto approvare norme per limitare, porre dei paletti alla possibilità di finanziare campagne elettorali, spot elettorali e così via. Ora tutto questo è stato spazzato via. Ed effettivamente riversare di questi fiumi di denaro, soprattutto in campo repubblicano, per la prima volta Barack Obama ha denunciato nelle mail che manda ai suoi sostenitori il rischio di essere outspent, cioè di vedere il suo rivale spendere, raccogliere e spendere più fondi elettorali di lui. Ecco, questi fondi stanno veramente deformando la competizione, a vantaggio ovviamente di chi più soldi da spendere ha, e lo stesso Barack Obama, che è un principe delle campagne elettorali del racconto dei fondi, l'anno volta scorsa aveva battuto ogni record, si trova ora in difficoltà, e ovviamente questo compromette, soprattutto negli stati cruciali, il risultato delle elezioni, o comunque lo influenza in modo molto significativo. Ecco, dalla base in Nevada dalla quale si governano i droni, lei fa delle riflessioni invece sulla proiezione internazionale degli Stati Uniti. Qui lei tocca per mano i rischi di quella che chiama una sovraestensione degli Stati Uniti sproporzionata rispetto alle risorse economiche, umane e psicologiche. Insomma, l'America si deve aspettare un futuro di stress da questo punto di vista. Sì, anche se ultimamente sembra che su un fronte militare gli Stati Uniti stiano facendo le cose in modo più rapido e più efficiente forse che su altri piani, perché è già in corso un riorientamento complessivo della strategia globale americana, è già in corso una riorganizzazione anche tecnica delle forze armate. Con questo però c'è anche un riorientamento degli impieghi di forze militari verso l'Asia, verso l'Australia, verso il Pacifico, e quindi sotto questo profilo forse stanno gestendo questo loro relativo declino in modo più consapevole e più efficiente, anche se bisognerà poi vedere che cosa succederà per esempio quando se ne andranno dall'Afghanistan e che cosa succederà a seguito della turbolenza del Medio Oriente e degli Stati Arabi, come dimostra poi il caso della Siria in questi giorni. Ecco, lei ha parlato adesso di relativo declino. Per la verità molti osservatori ritengono che il declino degli Stati Uniti sia molto relativo, soprattutto visto dall'Europa. Circa un mese fa l'Economist per esempio ha sottolineato lo straordinario dinamismo che ancora ha quel paese e la sua economia. Del resto lei stesso scrive che gli Stati Uniti hanno grandi possibilità di definire i confini della transizione che si preparano a governare, e li raccomanda, diciamo, di riuscire a rilanciarsi radicalmente. Ecco, secondo lei esiste ancora un eccezionalismo americano allora? In parte sì, non è mai esistito nella misura in cui gli americani l'hanno ritenuto tale, a mio avviso. Gli Stati Uniti non sono stati così ontologicamente diversi dall'Europa quanto hanno sforzato di definirsi, questa è una mia opinione condivisa da molti studiosi. Allo stesso modo in questo periodo non è vero che gli Stati Uniti sono ormai uguali all'Europa e al resto del mondo, mantengono alcune particolarità, mantengono una mentalità diffusa che è straordinariamente aperta a un futuro, all'innovazione, alla ricerca, all'imprenditoria, mantengono un rapporto comunque con l'immigrazione, con l'accoglienza degli stranieri che poi diventano americani, che si sta modificando perché si sta chiudendo, ma che anche in passato ha avuto periodi di chiusura e che comunque mantiene un atteggiamento dell'accoglienza delle risorse positive che possono venire dall'esterno, e proprio su questo dovrebbe puntare l'America sul rilancio di questa sua capacità di attirare le energie migliori dal mondo e metterle a frutto nel modo migliore possibile. Quindi a mio avviso ci sono ancora effettivamente delle carte importanti che l'America può giocare, anche perché il declino americano è proprio relativo in senso tecnico, cioè più che decadere in America sono negli ultimi anni salite molto le altre nazioni di quello che una volta si chiamava Terzo Mondo o giù di lì, e quindi anche l'eventuale rallentamento di questa ascesa, come si sta vedendo in Brasile, in parte in Cina e così via, può rendere ancora più relativo appunto il declino americano e mantenere invece negli Stati Uniti una posizione di grande centralità. Grazie a Oliviero Bergamini, autore di Da Wall Street a Big Saw. Una testimonianza non in versi ma poetica su New York sono le lettere del poeta spagnolo Federico García Lorca, riproposte da Archinto e curate da Claudio Attacchi per l'edizione italiana, 108 pagine, 14 euro. García Lorca fu a New York trentenne tra il 1929 e il 1930, traendone un'impressione vivissima che così riassume in una conferenza che pure qui viene pubblicata. I due elementi, scrive, che il viaggiatore capta nella grande città sono architettura extraumana e ritmo furioso, geometria e angoscia. A prima vista il ritmo può sembrare allegria, aggiunge, ma quando si osserva il meccanismo della vita sociale e la schiavitù dolorosa di uomo e macchina insieme, si comprende quella tipica angoscia vuota che rende perdonabile per evadere persino il crimine e il banditismo. Trasferiamoci rapidamente nell'America nel Sud e precisamente in Patagonia, e ci andiamo con l'omonimo libro di Chris Moss, un giornalista inglese, sottotitolato Paesaggio dell'immaginario, Doia, 374 pagine, 20 euro, tradotto da Silvia Agogeri. La Patagonia è una terra affascinante, grande tre volte l'Italia, ma con solo 1.750.000 abitanti, ed è stato spesso oggetto di riflessioni letterarie. Moss, per esempio, parte da Chatwin e ammette di essersi sentito in parte tradito dal grande scrittore dopo aver iniziato a conoscere direttamente quel territorio, un territorio dove, spiega, l'impronta umana è meravigliosa quanto la sua anima selvaggia. Ora, naturalmente, la Patagonia è molto più battuta dai turisti, ma l'esigenza di andare all'origine anche letteraria e del mito rimane. Questo libro vuole appunto realizzare questo itinerario con testi e immagini che ci fanno davvero conoscere questa terra e ci avvicinano a tanti personaggi affascinanti in qualche modo legati a essa, da Magellano a Pigafetta a Saint-Exupéry, anch'egli affascinato dalla Patagonia, sulla quale volò a lungo, traendone le impressioni che così Moss riassume. La Patagonia, come il Sahara, permise a Saint-Exupéry di riflettere sul significato della libertà. I paesaggi, privi di confusione, mostravano che c'era una vita, natura, bellezza, meraviglia, oltre gli strati di ghiaia, terra o asfalto, cui l'uomo si aggrappava come fossero cordoni ombelicali. È vero, le strade uniscono le persone, ma rifuggono dalla topografia. Danno una prospettiva piatta, limitata, conducono lo spirito in direzioni molto battute e lo accerchiano. Per Saint-Exupéry, il paesaggio della Patagonia era un riflesso del cielo, un'esilarante apertura che trovava respiro nelle solitarie stelle delle case, isolate nella pianura cosmica. La ragione per cui quest'autore è completamente a suo agio con il sublime è che per lui volare e scrivere sono due parti della stessa esperienza. Come passare attraverso la più oscura delle tempeste poteva essere un'esperienza preziosa, così un volo dell'immaginazione sulla pagina poteva essere, in un certo senso, un momento di rischio e rivelazione. Un altro autore molto legato alla Patagonia è l'americano Paul Theroux, che sulle tracce del bisnonno emigrato prima in Argentina e poi negli Stati Uniti d'America da Piacenza ha alimentato la letteratura da viaggio sulla Patagonia, scrivendo anche assieme a Chatwin. E del viaggio come categoria dello spirito scrive nel libro Il Tao del Viaggio, pubblicato da Dalai, 346 pagine, €19,90, tradotto da Giuliana Giuliani. Questa è una sorta di enciclopedia del viaggio costruita intorno a dei capitoli trattati con riferimento a grandi scrittori di viaggi, di cui troviamo moltissimi brani. Per esempio c'è un capitolo sul camminare, qui dopo le riflessioni originali di Theroux troviamo riferimento appunto a Chatwin, a Herzog e a Rousseau, oppure un capitolo sui libri scritti dopo un viaggio e poi altri capitoli intervallati da alcuni intermezzi intitolati ad alcuni grandi viaggiatori, per esempio Robert Louis Stevenson, il quale scrisse queste righe. I piedi nudi sono più antichi delle scarpe. È duro avere un sorvegliante sudista, peggio ancora averne uno nordista, ma peggio di tutto è essere schiavisti di se stessi. L'opinione pubblica è un tiranno assai debole a paragone dell'opinione che abbiamo di noi stessi. Quello che io penso di me, ecco ciò che determina il mio destino. Quasi tutti sanno come guadagnare dei soldi, ma neppure uno su un milione sa come spenderli. Se avesse saputo anche solo questa cosa, non li avrebbe mai guadagnati. Un uomo dovrà rimanere su questo pianeta senza imparare alcunché, senza accrescere il proprio sapere, limitandosi a sostentare il corpo e con ansia morbosa a salvarsi l'anima? Questo mondo non è adatto a chi non ne scopra le leggi. E parte da una maestosa montagna del Sud America, la Conguà, il libro di un grande alpinista, Simone Moro, La voce del ghiaccio, gli 8000 in inverno, il mio sogno quasi impossibile, pubblicato da Rizzoli, 282 pagine, €18. Questo è un libro molto particolare, non solo perché racconta appunto le spedizioni sulle montagne più alte e insidiose, ma perché è stato scritto durante una di queste imprese, l'ascensione al Nanga Parbat. Quando lo scrittore comunica all'editore la sua decisione, questi gli obietta che l'impresa è quasi impossibile, scrivere e scalare. Ed ecco appunto il titolo del libro, che dunque Moro comincia a scrivere lo scorso 4 gennaio al campo base, a 4230 metri, a una temperatura di meno 13 gradi. E il diario dell'ascensione scandisce le avventure negli altri 8000 metri. A proposito di Argentina, troviamo una traccia del suo poeta maggiore, Borges, nel libro di Fabio Bussotti, autore e attore, intitolato Il cameriere di Borges, è pubblicato da Perdisa Pop, 294 pagine, €16. La trama si svolge tra Roma e Buenos Aires, in un libro che ha al centro una singolare figura di un vecchio amico di Che Guevara e poi appunto servitore di Borges, la cui sparizione sarà al centro di un'inchiesta internazionale condotta dal commissario Bertone, che dovrà fare i conti col passato autoritario dell'Argentina. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Ho accennato poco fa a Borges, che invece troviamo come coautore nel libro che aveva scritto con un suo collega più giovane, Adolfo Bioy Casares. Il libro si intitola Sei problemi per Don Isidro Parodi, è pubblicato da Adelphi, 192 pagine, €12, tradotto da Lucia Lorenzini. Questi sono sei racconti di taglio poliziesco, anzi investigativo, visto che il detective in questo caso è, sia pure ingiustamente, rinchiuso in galera, dove riceve clienti che gli chiedono di aiutare provare a dipanare qualche mistero che li riguarda. Naturalmente dire poliziesco è riduttivo, la genialità dei due autori infatti rende queste avventure particolarmente eccitanti, a partire dal narratore, un autore nel quale Borges e Bioy Casares prendono in giro la boria di tanti intellettuali, e la loro vittima in questo caso è Honorio Bustos Domecq, che per esempio nel suo curriculum vanta di avere fatto ottimi studi nella scuola elementare. Brasiliana invece è Eloneida Studart, una figura di punta della politica brasiliana ed esponente del movimento femminista di quel paese, che ha pubblicato La Libertà e Un Passero Blu, è pubblicato da Marcos, 224 pagine, 10 euro, tradotto da Amina Di Munno. Questa è una storia dominata da una nonna tirannica di cui solo la nipote non subisce l'autorità. Intorno una storia d'amore che rompe tradizioni e tabù, presenta condizioni sociali spesso drammatiche, afferma la personalità della protagonista, la giovane Marina. Un altro accenno fatto poco fa a Stevenson, ricordo che dell'autore è uscito da Barbès un romanzo inedito che è stato attribuito allo scrittore soltanto nel 1982 e che era uscito nel 1977, una vecchia canzone, 106 pagine, 8 euro, tradotto da Fabrizio Bagatti. Il racconto era stato pubblicato a puntate su una rivista ed è considerata la prima opera scritta e pubblicata, anche se anonimamente, da Stevenson e, come nota il curatore, anticipa molti dei temi che ritroveremo nei romanzi più famosi. Torniamo alle mete e ai viaggi. Una collana istruttiva per un viaggio tutto italiano è Contromano di La Terza, dedicata a una rivisitazione del nostro paese. Adesso sono usciti questi tre titoli di Marco Rovelli, Il Contro in Testa, Gente di Marmo ed Anarchia, 144 pagine, dedicato a Massa, Carrara e alle Alpi Apuane. Di Nandu Popu, che è il nome d'arte di Fernando Blasi, un esponente del gruppo musicale dei Sud Sound System, Salento, Fuoco e Fumo, 108 pagine. Di Alessandro Banda, con insegnante, Due mondi e Io vengo dall'altro. Il Sud Tirolo, detto anche Alto Adige, 104 pagine, ciascuno costa 12 euro, pubblicati, ricordo, da La Terza. Sono tre testimonianze, queste appassionanti, insolite e suggestive, su tre aree che certamente molti di voi frequenterete o state frequentando in questo periodo. Non sono ovviamente guide artistiche, ma itinerari del cuore che ci fanno entrare nella storia, nella psicologia e nella realtà di questi luoghi davvero affascinanti. E prendo spunto dall'Alto Adige per segnalare, di Marco Albino Ferrari, che è un grande esperto di montagne, Alpi Segrete, storie di uomini di montagne, pubblicato dalla Terza, 172 pagine, 9 euro. Qui troviamo alcune storie di montagne che hanno come palcoscenico dei luoghi fra i più belli dell'arco alpino, anche qui raccontati con lo scopo di farci conoscere posti ed esperienze meno frequentati e meno battuti e sempre sorprendenti, come ricordano queste righe dolomitiche dedicate a un luogo che io frequento e conosco bene. A parte le attrattive da campagne marketing e gli scenari da cartolina che fanno il giro del mondo, sviluppando la già fiorente macchina del turismo di massa, nelle Dolomiti sono rimaste alcune cime e vallate di cui quasi nessuno parla. Cime e vallate che per diversi motivi sono sopravvissute a margine del grande clamore, come residuati di un antico mondo ancora libero, silenzioso e solitario, che contrastano in maniera disorientante con il resto dell'area dolomitica. A pochi chilometri dalle tre cime di Lavaredo, per esempio, si trova la zona del Comelico, con il bacino pietroso dove spicca il Monte Popera, grandioso, severo, circondato da alcune guglie verticali che furono nobilitate negli anni 30 dalle vie alpinistiche del fuoriclasse triestino Emilio Comici. Ora, nonostante la maestosità di queste pareti, dove il grande alpinismo ha lasciato la sua traccia, il Popera è del tutto ignorato dal grande pubblico. Eppure, cos'ha da invidiare alle vicine Dolomiti di Sesto? Lo stesso vale per i massicci d'Oltrepiave, sconosciuti ai più. Un'altra guida insolita, ma questa ci porta all'estero ed è fatta di parole, immagini e fumetti, è Jugoland, In viaggio per i Balcani, di Andrea Aragone e Gabriele Gamberini, pubblicato da Beccogiallo, 256 pagine, 15,90 euro. Questa è una serie di testimonianze, anzi una guida enopolitica, come viene definita, che ci fa conoscere meglio la Slovenia, la Croazia, la Serbia, la Bosnia, la Macedonia, il Montenegro e il Kosovo. Ma come viaggiare? Se siete appassionati di moto, vi segnalo il libro di Roberto Parodi, Il cuore a due cilindri, viaggi e riflessioni di un motociclista innamorato della sua Harley Davidson, pubblicato da Tea, 244 pagine, 10 euro. L'autore è un milanese d'adozione, appassionato di viaggi e di moto, verso le quali Parodi dice di nutrire un vero e proprio amore. Per la precisione, l'amore verso ciò che le motociclette rappresentano, scrive, o ancora meglio, verso ciò che una motocicletta può far provare a ognuno di noi. E qui troviamo la storia di questa passione, della sua maturazione, che finirà col dominare l'intera vita dell'autore e naturalmente la cronaca di tante avventure anche quotidiane e metropolitane assicurate dalla sua moto. Un altro mezzo di locomozione troviamo nel libro di Paolo Ciampi, Le nuvole del Baltico, in bicicletta con mio figlio cercando il nord, pubblicato da Mauro Pagliaio, 212 pagine, 10 euro. Questa è la cronaca di un viaggio per offrire un diversivo, secondo la formula dell'incipit di Tre uomini in barco, un libro molto caro all'autore. Più che di un diario di viaggio, si tratta della cronaca di un rapporto nuovo e interessante col figlio di 9 anni che accompagna papà in questa passeggiata in un panorama insolito e straordinario, a bordo di un mezzo che, scrive Ciampi, fa bene al mondo, aiuta a sentirsi con la coscienza a posto, aspetto non trascurabile, e magari esagero, però è anche un buon pretesto per gettare uno sguardo alla storia. E punta nord, il libro di Andrea Di Robilanti, Irresistibile Nord, pubblicato da Corbaccio, 212 pagine, 18,60 euro. Protagonisti qua sono i due fratelli mercanti veneziani Nicolò e Antonio Zen, che alla fine del 300 intrapresero un viaggio verso misteriose isole del nord, tra le quali l'Islanda. Di questo viaggio troviamo tracce in una mappa che viene pubblicata nel 500 da un pronipote dei due, la cui pubblicazione dà vita a un grande dibattito se davvero gli Zen avessero visitato quelle isole, tra cui ci sarebbero le Faroe e le Shetland, ovvero se tutto fosse frutto della loro fantasia. E a indagare su questo mistero si mette l'autore, che si mette a scartabellare tra archivi, fa tanti sopralluoghi, e tutto ciò dà luogo a un libro di storia appassionante come un romanzo e capace anch'esso di invogliarci a qualche escursione magari meno banale. Oggi possiamo certamente farlo in condizioni meno proibitive di quelle che incontrarono gli Zen che vengono descritte in queste righe. Una volta raggiunta la Manica, la navigazione diventava ancora più pericolosa. Il mare mosso, le onde alte, la nebbia fitta, le secche sempre in agguato. Per un veneziano, anche se esperto come Messer Nicolò, era come avanzare in un territorio ostile. Le maree erano molto più potenti che nel Mediterraneo e creavano fortissime correnti opposte, una in profondità e una in superficie. Tenere la rotta in quelle condizioni poteva essere davvero arduo. In estate, poi, il tempo era spesso burrascoso e la bussola magnetica diventava inservibile. Con il cielo coperto, nemmeno le stelle potevano essere d'aiuto. Scrive Niccolò il giovane: «Assaltato in quel mar da una gran tempesta, molti di Messer Niccolò andò trasportato dalle onde e da venti senza sapere dove si fosse. Quando finalmente scoprendo la terra, né potendo più reggersi contro quella fierissima burrasca, ruppe nell'isola Frislanda, salvandosi gli uomini e gran parte delle robe che erano sulla nave. E questo fu l'anno 1380. E a proposito di grandi esploratori, vi segnalo di Gabriella Airaldi, che è una docente universitaria a Genova, Colombo, da Genova al Nuovo Mondo, è pubblicato da Salerno, 212 pagine, 13 euro. Un'agile biografia del grande esploratore che ne colloca la vita e l'avventura nel clima di grande cambiamento che domina Genova, la Spagna e l'Europa di quel tempo. Tra l'altro Colombo non fu un fulmine a ciel sereno, spiega questo libro, ma giunse al termine di un lungo periodo di fruttuosi rapporti tra Genova e l'area iberica, proprio sul fronte delle scoperte e delle esplorazioni. E infatti di questo libro soltanto la seconda parte, dedicata alla vera e propria storia di Colombo, dopo una lunga premessa sulle condizioni storiche ed economiche del tempo in cui maturò la sua grande impresa. Sull'eterno conflitto tra l'uomo e il mare vi segnalo di Susan Casey I giganti dell'oceano, la battaglia dell'uomo contro la furia delle onde, pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 19 euro, tradotto da Roberta Zuppet. Anche questo è un viaggio tra i marosi e la violenza del mare che l'uomo cerca sempre di addomesticare, ma l'impresa è difficile perché, scrive l'autrice, l'oceano non obbedisce alle spiegazioni sistematiche che vorremmo impogli, un guazzabuglio di variabili, alcune delle quali sono state prese in considerazione dalla scienza e altre no, perché non sappiamo neppure che cosa cosa siano. E allora un ruolo importante nel libro ce l'hanno i surfisti, che sono tra i protagonisti di quest'ansia dell'uomo di dominare l'onda. E a questo punto... Il confettino. Ai bambini che magari in questo periodo hanno nostalgia del loro gatto, segnalo il libro Mio Miau, il mio amico specialissimo gatto. Un libro colorato e divertente di Sandor Stoppard, illustrato da Remy Cherlep e tradotto da Francesca Lazzarato e pubblicato da Orecchio Acerbo, 14 euro, 48 pagine. E con questo ringrazio Luca Cremonesi e redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, il libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.